è sublime, questo è l'amore del mio creatore. Non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi all'eterno amore del mio creatore. Dio d'amore, ci ama, ci comprende, ci guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Per questo l'adoro con l'anima mia, perché mi ha dato il mio Gesù dolce calma. Dio d'amore, ci guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Per questo l'adoro con l'anima mia, perché mi ha dato il mio Gesù dolce calma. Dio d'amore,